8 e 57 minuti, una buona giornata e questa mattina come ogni venerdì torna Pensatech. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori in questa Bologna imbiancata, una buona giornata anche ai miei compagni di viaggio nel digitale di questa mattina. Marco Boscolo, buongiorno. Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori imbiancati. E dall'altra parte del vetro la nostra Lisa Lazzarato, buongiorno, finalmente in studio dopo che ogni venerdì ascoltiamo il suo Pensatech, il suo Glossatech, scusate. Buongiorno, per questa volta in doppia versione però, perché c'è anche il Glossatech. C'è il Glossatech, ma appunto Lisa invece ci parlerà anche della sua esperienza sull'apprendimento online, che è la tematica di questa mattina. La tematica di questa mattina mai più adatta alla giornata, visto che con la neve che c'è fuori vi verrebbe voglia di prendere, uscire di casa e andare a sentire il vostro corso preferito? No, perché non lo facciamo online? E quindi qui si apre tutto un mondo che si è sviluppato negli ultimi anni, che si chiama e-learning. Quindi apprendimento digitale, che spesso e volentieri vuol dire anche a distanza attraverso il web. Sì, infatti sappiamo che supera le difficoltà spesso fisiche o meteorologiche, come hai ricordato tu, risponde anche a un'esigenza di aggiornamento continuo che sembra sia ormai necessaria. Un aggiornamento continuo che nel mondo di oggi, direbbe qualcuno, visto anche il logorio della vita moderna, non si può proprio più fare a meno di essere sempre aggiornati, e quindi anche adulti, non soltanto quindi le fasce che noi tradizionalmente pensiamo legate al periodo dell'apprendimento, quindi i ragazzi che vanno a scuola, gli studenti universitari, chi si sta specializzando, ma anche proprio gli adulti continuano a sfruttare queste opportunità di apprendimento online per continuare ad aggiornarsi nel loro campo professionale o, perché no, anche per cambiare mestiere magari. E allora, che cos'è l'apprendimento online, che cos'è l'e-learning? Come di consueto ce lo facciamo spiegare dal nostro Glossatech. Come e-learning. In inglese learning significa apprendimento. Aggiungiamo la famosa E, contrassegno della nostra epoca dominata dall'elettronica, e otterremo l'e-learning, un tipo di formazione a distanza che utilizza il computer e la rete. L'e-learning presuppone l'accesso, attraverso internet, a materiali didattici e interattivi e consente all'utente di confrontarsi in un ambiente virtuale con studenti e docenti. Questo è reso possibile dall'uso di una piattaforma tecnologica, cioè un insieme di programmi che lavorano in maniera integrata. Il ricorso all'e-learning è sempre più frequente e rappresenta un sistema complementare al classico insegnamento in presenza e in alcuni casi l'unico possibile. L'offerta di corsi di questo tipo è sterminata e chiaramente, visto l'uso del web, travalica i confini geografici. Se siete interessati a questo tipo di formazione, armatevi di pazienza e cominciate a navigare. Dei buoni punti di partenza sono in genere le istituzioni preposte alla formazione, università, centri di ricerca, eccetera. Nella descrizione del corso devono essere ben chiari gli obiettivi didattici, gli strumenti offerti per raggiungerli, i sistemi di valutazione e tutoraggio e le competenze di chi ha prodotto i materiali. Poi vale sempre la regola che sul web vi sono anche ottime risorse gratuite. Insomma, questo è che cosa è l'e-learning sul lato pratico, però. Sul lato pratico, che cosa vuol dire? E noi allora abbiamo chiesto proprio a Lisa di raggiungerci in studio oggi, perché lei, tra tutti noi che ogni settimana vi portiamo l'innovazione digitale da questi microfoni, è una di quelli che ha, anche da adulta, ha voluto fare un corso online. Allora Lisa, com'è stata questa esperienza? Che cosa è significato dal lato pratico? Dunque, dal lato pratico si trattava innanzitutto di un corso gratuito, appunto. E questo e fa quindi, una bella differenza. Sì, esatto. E poi è contrassegnato con una sigla quasi, insomma, pronunciabile, MOOC, che sta per, è un acronimo che sta per Massive Open Online Courses, che è una modalità di corsi online che prevede proprio appunto Massive, quindi un elevato numero di studenti, cioè gli iscritti ad esempio nel corso che ho seguito erano 2000. E di che cosa si trattava? Di che cosa vi siete occupati? Il corso era sull'infografica e la visualizzazione dei dati, tenuto da Alberto Cairo, che è un giornalista e uno dei più grandi esperti, insomma, in questo ambito. E quindi la cosa, diciamo, l'argomento mi era quasi totalmente nuovo dal lato, diciamo, pratico, nel senso che seguivo questo discorso sulla visualizzazione dei dati, però non è che sia un'esperta né diciamo dal lato di design e di sviluppo, nessuna di queste cose. Però il corso era aperto a tutti, cioè non c'era nessun requisito di ingresso. Lisa, sono lezioni solo frontali? Cioè, mi hai detto prima che eravate in 2000, in un'aula universitaria è difficile immaginare un'aula così affollata. Dei meccanismi di interazione, di chiarimenti, domande esistono? In realtà sì, infatti cioè, credo sia proprio il punto critico di questo tipo di corsi, perché ovviamente con 2000 utenti insomma diventa difficile essere seguiti. Però devo dire che in realtà sono rimasta stupita, almeno per come era organizzato questo corso, che è stato finanziato dal Nine Center for Journalism in the Americas, che è un programma dell'università del Texas di Austin. In pratica, in realtà, c'era a parte Alberto Cairo, che in realtà ha risposto almeno nominalmente lui, poi avrà avuto sicuramente degli assistenti. Il ghostwriter. Esatto. Però in realtà, cioè io stessa, che perché l'invito è comunque a partecipare ai forum, oltre a, diciamo, seguire le lezioni vere e proprie. Lui stesso mi ha risposto qualche volta, quindi insomma mi sono immaginata che comunque dietro ci sia un lavoro notevole per riuscire a essere così presenti, insomma. E a proposito di strumenti della partecipazione, ricordiamo anche i nostri contatti. Volete raccontarci se anche voi avete fatto un corso online, che esperienza ne avete tratto, se vi è piaciuto o meno? I nostri contatti, come sempre, l'SMS 348-7649-289, ma anche quelli digitali come il Twitter, quindi la Pensatech con il CH, oppure la solita pagina di Radio Città del Capo su Facebook. Quindi mi raccomando, raccontateci la vostra esperienza, avete fatto un corso online, che cosa vi è sembrato? E anche la mail diretta @radiocittadelcapo.it. Non posso ricordarmi sempre tutto. E allora, questi i nostri contatti, questa era l'esperienza di Lisa. Lisa che rimane ancora per qualche minuto con noi, ma aspettiamo appunto anche le vostre esperienze o anche le vostre sollecitazioni. Se magari invece ci volete raccontare se quello che vi abbiamo raccontato vi fa venir voglia invece di seguire un corso online e scrivervi appunto per tenervi aggiornati. Tra pochissimo andremo a vedere una delle esperienze più innovative su questo fronte. Si tratta di una piattaforma di corsi online, si chiama OIL Project, è una piattaforma di video corsi online per la scuola e per gli studenti, una startup fondata da Marco De Rossi, che è country manager per l'Italia di tripwolf.com, si occupa anche di gestione sia strategico operativa di Working Capital, ma ha anche collaborato con Nova e Sole 24 Ore, insomma esperto sicuramente di questi temi. E ricordiamo anche che ha fondato OIL Project a soli 22 anni e noi l'abbiamo al telefono con noi. Buongiorno De Rossi. Buongiorno. Allora, o il project, ricordavamo che la fondazione avviene quando lei aveva solo 22 anni. Com'è nata? Come le è venuta l'idea? Oil è nato quando di anni ne avevo 14 nel 2004 e per molti anni è stata una scuola informale di informatica, soltanto di informatica online, con eventi che all'inizio erano in chat, ed è nata dall'esigenza di condividere delle competenze senza dover per forza andare in una scuola fisica. Quindi eravamo alle scuole superiori, c'era qualcuno che era esperto di Photoshop, altri di sistemi operativi, insomma varie competenze informatiche, e ci siamo detti: ma perché non creiamo un sito dove chiunque può spiegare all'altro quello che ha imparato in questi anni? E poi tutto è abbastanza accelerato in realtà soltanto negli ultimi 2 anni, da quando il project è una startup, una piccola azienda, perché abbiamo iniziato ad affrontare anche altri temi, perché per dirla tutta ci siamo anche un po' abbastanza scocciati solo di parlare di informatica, e adesso su il project si trovano video, test, esercizi e corsi dalla letteratura alla chimica, dalla biologia al diritto. Ecco, sul vostro sito, sul sito di Oil Project, avete scritto che nell'arco dell'ultimo anno ci sono stati 250.000 utenti della piattaforma di e-learning messa in piedi da Oil Project. Non so se quello è un numero del 2011-2012, adesso siamo arrivati a 70.000 studenti al mese. 70.000? Ecco, quindi una bella fetta, insomma, probabilmente sicuramente una delle realtà, se non la realtà più grossa in Italia da questo punto di vista. Mi facevo però questa domanda, visto che abbiamo appena sentito una testimonianza anche di una persona che ha fatto un corso in un'altra piattaforma, ma grandi numeri, ecco, qual è poi la percentuale di utenti davvero attiva? 70.000 sono solo gli iscritti, poi quanti partecipano, interagiscono attraverso tutti gli strumenti che ci sono a disposizione? La misurazione della qualità è sempre un tema abbastanza delicato. In realtà gli utenti che usano il sito sono molto di più di 70.000, sono circa il doppio. Quindi già 70.000 è un numero che tiene conto degli utenti che lo usano e seguono effettivamente una lezione, quindi passano del tempo, misuriamo in minuti la loro permanenza. Poi quelli che effettivamente addirittura concludono ad esempio un corso sono meno. E il tema qual è? Il tema è che secondo noi il nostro target non sono solo studenti delle superiori, ma di tutte le età, anche se i contenuti sono di quella fascia. Secondo noi ha un forte valore anche solo il fatto che un cinquantenne, invece che stare davanti ai tradizionali programmi di approfondimento televisivo come è sempre stato, trascorre un quarto d'ora a rivedere qual è la genesi del sentiero di Nino Ragno di Calvino. E quindi, a prescindere anche poi dal magari il fatto di fare un esame o di avere qualcuno che verifica la competenza, cosa che poi succede nella scuola, nel mondo reale o sul project con degli esercizi, crediamo che sia molto importante erogare contenuti gratuitamente, che è un po' la filosofia dei massive online open courses che si sta diffondendo come trend internazionale, con Coursera, Khan Academy, Merlot, che non è il vino ma è un archivio di contenuti formativi. Quindi ecco, misuriamo il nostro risultato con il tempo che le persone, l'attenzione che le persone ci dedicano, che è un po' la risorsa scarsa di questo anni. Decennio o secolo, da quando internet ormai ha battuto qualsiasi barriera, chiunque può creare un giornale online, può fare di tutto, no? Non c'è più la limitazione della carta, la carta sta andando dove sta andando, l'unica risorsa scarsa rimane questa, l'attenzione. Ecco, la cosa interessante anche è una sfida, avete ragione voi. Ecco, anche da questo punto di vista una cosa interessante è che rispetto ai servizi erogati da Coursera o dagli altre piattaforme che tu hai citato, su Oil Project si possono anche proporre dei corsi. Come funziona questo aspetto? Sì, Coursera in realtà è appunto soltanto gestito dalle università, che garantiscono una qualità notevole, devo dire, però nessuno può partecipare, e su Oil Project invece chiunque può proporre dal video al testo all'esercizio al corso. Noi abbiamo una piccola redazione interna che effettua, diciamo, una verifica formale. Verifica che il contenuto sia inedito, che sia una lezione, non un comizio, un appunto, non pubblichiamo appunti come fanno altri siti italiani. E poi cerchiamo di vedere se, insomma, ci sono degli errori, no? Se si verificano queste condizioni, pubblichiamo il contenuto e poi la community ha eventualmente a segnalare altri errori dopo, o comunque con alcuni strumenti che sono il like, il commento, e banalmente vederla ci dice tra tutte le lezioni che abbiamo sul canto quinto dell'inferno qual è la migliore, ad esempio. Certo, quindi in qualche modo c'è una verifica della qualità dei materiali che vengono proposti fatta dalla redazione interna, che garantisce che quello che viene erogato sia di qualità sufficiente da essere reso pubblico. Dicevi prima che il target, non, anche se non è il target principale, è comunque quello delle scuole superiori, quindi del liceo, degli istituti professionali, e ci domandavamo da questo punto di vista perché non fare anche dei corsi che invece avessero come oggetto come target proprio gli studenti universitari, che sono magari quelli che hanno più tempo, diciamo così, per approfondire online. Ma la scelta per ora è derivata da una questione di dimensione del target. Sono gli ultimi 3 anni delle scuole superiori ci portano a parlare davvero quasi milioni di ragazzi, questo è l'ordine di grandezza delle scuole superiori, e sull'università tutto è molto più di nicchia. Basti pensare a quante copie vendono i libri universitari della singola materia, no? Diritto commerciale o qualsiasi singola materia. Quindi per ora stiamo abbracciando quel target per raggiungere numeri più elevati, rendere anche il progetto economicamente più sostenibile. Noi vorremmo vivere di pubblicità, non vorremmo mai fare pagare i nostri contenuti, e una volta che abbiamo le spalle più solide, rivolgerci al mondo dell'università, cosa che potrebbe succedere già nei prossimi mesi, spero. Abbiamo già dei contenuti di quella direzione, su quel target. Detto questo, poi non pensiamo all'utente del project come il singolo utente delle scuole superiori dell'università, c'è di tutto. 2 settimane fa abbiamo scoperto che c'è un ragazzo di 16 anni che ci manda lezioni di fisica, e sappiamo che ci sono invece studenti ottantenni o, appunto, come dicevo prima, adulti che utilizzano il project come il surrogato di un programma di apprendimento. Le definizioni, le costrizioni e le tipologie sono abbastanza, cadono davanti a uno strumento che viene utilizzato da persone abbastanza diverse per gli scopi più disparati. E quindi questo OIL Project, ricordiamo il sito www.oilproject.org. Ultima domanda in 30 secondi, ma perché OIL Project come nome? Perché non sapevamo bene l'inglese, non avevamo fatto nessun corso di marketing a 14 anni, e quindi abbiamo tirato fuori questo nome che so oggettivamente essere non una genialata, ed era un acronimo di Open Informatic Lessons. Vi dicevo che parlavamo solo di informatica, peccato che informatic in inglese non esista. Poi 2 anni dopo ce ne siamo accorti, e se volete possiamo sostituirlo con un interactive, visto che parliamo non solo di informatica, ma diciamo incidente di percorso da teenager arrogante, mettiamola così. No, subito questo per chiarire che non ha niente a che fare con il petrolio, invece, che oil in inglese, appunto, sta per petrolio. Quindi grazie mille a Marco De Rossi, appunto, e al suo OIL Project, e insomma, a sentirci a presto. Buona giornata. Grazie a voi, andate a votare. Buona giornata a De Rossi, che ci ha presentato il suo progetto, la piattaforma tra le più sviluppate in Italia di corsi online. Marco, io tornerei a Lisa a questo punto, se ci vuole raccontare qualcos'altro della sua esperienza con i corsi online. Sì, dunque, una cosa che forse non ci si immagina prima di iniziare un corso del genere, che comunque il fatto che sia flessibile, che uno chiaramente può accedere all'ora che vuole, quando vuole, però alla fine non significa che non richieda un impegno, insomma, anche notevole, nel senso, nel caso ad esempio del corso che ho seguito sull'infografica e la visualizzazione dei dati, si diceva nella presentazione del corso che era richiesto più o meno un impegno di 4-6 ore settimanali, volendo svolgere tutti i compiti assegnati e vedere tutte le lezioni. In realtà poi mi sono ritrovata che comunque altro che 6 ore a settimana, cioè per diciamo seguire il corso nella maniera più proficua e trarne un qualche beneficio, comunque ci ho speso parecchio tempo. Alla fine notturno praticamente. Perché poi si segue la lezione, però ovviamente ci sono anche gli esercizi, esatto, piuttosto che la rielaborazione personale di quello, esatto, che sono la parte dei video in realtà erano video lezioni costruite ad hoc per questo corso, quindi non cose riciclate da altrove. E quelle neanche, diciamo, troppo lunghe, poi c'erano letture, però poi alla fine era richiesto anche molto un impegno, insomma, per chi volesse nel fare esercizi. E quindi quello, secondo me, che poi è stato anche forse la cosa più positiva, perché da lì, insomma, sono venute gli input più interessanti. Quindi è il vantaggio che, rispetto a quello che ci potevamo immaginare prima di fare un corso del genere, non è stato così passivo, quindi soltanto monodirezionale, vedere lezioni frontali, apprendere nozioni, ma è stata anche una fase proprio di scrittura, di lavoro da parte degli studenti. Sì, poi direi che per come è stato concepito il corso si è dato molto risalto, ovviamente avendo una platea di studenti così diversa, c'erano anche professionisti del settore, cioè quindi una preparazione assolutamente diversa e eterogenea. Il punto di forza era far ragionare non tanto sul far ragionare sui concetti, quindi non tanto pretendere un esercizio tecnicamente perfetto, ma indurre a riflettere su più gli aspetti concettuali in qualche modo spingere tutti quanti gli utenti a continuare a esercitare una delle funzioni più interessanti che abbiamo a disposizione, che è quella del pensiero, quindi esercitarci a non invecchiare mai, a rimanere sempre vigili. Grazie mille anche a nostra Lisa Lazzarato, che sappiamo che adesso deve scappare perché, come sempre, i nostri professionisti sono impegnatissimi. Non è che devi andare a fare un altro corso online, vero? No, almeno, almeno per questa volta siamo tranquilli. E grazie a voi e a presto. Buona giornata. Ciao Lisa. Ciao. E noi, per continuare invece a parlare di e-learning, abbiamo un nuovo ospite, questa volta non in studio ma al telefono. Si tratta di Gino Roncaglia. Gino Roncaglia, a cui do subito il buongiorno. Buongiorno Gino Roncaglia. Buongiorno. Gino Roncaglia è docente di informatica applicata alle discipline umanistiche e di applicazione della multimedialità della trasmissione delle conoscenze presso l'Università degli Studi della Tuscia, titolo lunghissimo, che poi magari chiederemo anche di spiegarci, nonché autore anche di un libro uscito per La Terza che si intitola La Quarta Rivoluzione, 6 lezioni sul futuro del libro. Allora Gino Roncaglia, noi abbiamo parlato fino adesso di e-learning, abbiamo sentito una piattaforma come Oil Project, abbiamo sentito l'esperienza diretta di qualcuno che ha fatto un corso online. Questo per introdurre il fatto che nel corso degli ultimi anni la disponibilità di corsi online, di e-learning, di varie forme di apprendimento a distanza è cresciuta ed è esplosa grazie al web. Dal suo punto di vista di osservatore di questa realtà, che cosa è cambiato dal punto di vista dell'apprendimento da parte degli utenti? Che cos'è questa rivoluzione, sta davvero avvenendo oppure è soltanto una questione di grandi numeri? Ma una rivoluzione sicuramente è in corso, è una rivoluzione che va, per essere capita, scomposta in tutta una serie di fattori. L'e-learning non è necessariamente la bacchetta magica che può funzionare per qualunque tipo di formazione o in qualunque situazione, è uno strumento molto utile e anche molto potente, che in certi casi può affiancare la formazione tradizionale in presenza, in altri può sostituirla. In moltissimi casi permette di integrare tipologie più tradizionali di contenuti di apprendimento con tipologie nuove, quindi è un insieme di strumenti in realtà, ed è un insieme di strumenti che sicuramente risultati ne riesce a dare notevoli quando questi strumenti sono utilizzati in maniera seria e soprattutto in maniera conforme a quelle che sono le caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. Mentre invece l'e-learning rischia di rivelarsi una grossa illusione quando pensiamo che basti l'aggiunta di una componente online, di una componente telematica, per trasformare magicamente qualunque corso in un corso che funzioni, oppure quando pensiamo che per realizzare queste componenti online non servano poi dopo lavoro e anche strumenti specifici. Quindi l'e-learning non è una scorciatoia per erogare contenuti, ma è soltanto un altro canale per esercitare il pensiero didattico, in qualche modo, mi verrebbe da sintetizzare. Sì, direi che più che un canale è un insieme di canali e di strumenti che vanno utilizzati un po' come gli strumenti di un'orchestra in maniera accordata e ciascuno per quelle che sono le sue caratteristiche. In certi casi affidarsi soltanto all'e-learning può non funzionare, in altri casi forse lo si dovrebbe fare un po' di più. Dipende molto da quelli che sono i singoli obiettivi formativi e da quelli che sono i singoli strumenti online che vogliamo usare. Ecco, ma da questo punto di vista che cosa possiamo dire a quelle gridi da Cassandra che si sentono ogni tanto, in cui si dice che se l'e-learning diventa una modalità diffusa ci sarà il rischio di classi vuote, insomma c'è il rischio che ci sia una concorrenza da parte dell'insegnamento, dell'apprendimento online rispetto alla scuola e all'università, quelle che sono tradizionalmente le istituzioni che erogano invece l'apprendimento e la didattica? Dunque, la scuola e l'università lavorano sul campo di quella che è la cosiddetta formazione formale, cioè una formazione che è curriculare, prevede quindi dei programmi, degli obiettivi formativi specifici ed è una formazione che avviene in una fase iniziale, diciamo prima dell'immissione nel mercato del lavoro. In questo caso pensare che l'e-learning possa sostituire l'aula scolastica, la presenza dell'insegnante, o possa sostituire del tutto le aule universitarie è illusorio. L'esperienza delle università telematiche, per fare un esempio, è stata abbastanza disastrosa, anche perché ci siamo concentrati in quel caso, sbagliando, sugli strumenti e non sui contenuti. L'idea di avere delle università telematiche in cui i criteri di accreditamento erano basati soltanto sulle caratteristiche delle piattaforme tecnologiche e non sulle competenze e sui contenuti è un'idea che non funziona. Quindi io non credo affatto che ci sia una concorrenza dell'e-learning rispetto alla scuola e all'università, nel senso che l'e-learning sostituisce l'insegnante, il docente, le sedi fisiche della formazione tradizionale in presenza. Io credo che ci possa essere un affiancamento in questi casi di strumenti online agli strumenti in presenza. Credo che addirittura nella lezione in presenza si possano scardinare certi meccanismi tradizionali che oggi funzionano poco, anche certi linguaggi tradizionali, utilizzando anche strumenti online. Questo è un lavorare in una situazione in cui la formazione tradizionale e l'online si integrano e non sono in conflitto tra di loro. Ecco, abbiamo parlato prima del fatto che c'è una grande offerta di corsi online, di varie forme di apprendimento da diverse piattaforme. Se uno avesse voglia di approfondire un argomento, quali sono i criteri con i quali può valutare se l'offerta che gli viene fatta da una determinata piattaforma è di qualità e non si trova invece di fronte a una fregatura? Innanzitutto direi non guardare soltanto alle caratteristiche tecnologiche degli strumenti che vengono usati, ma guardare anche alla qualità dei contenuti che vengono erogati e chiedere informazioni anche su questo. Al di là della questione di come funziona la piattaforma, del fatto di poter lavorare a distanza, di poter lavorare 24 ore su 24, che sono alcune delle caratteristiche diciamo essenziali di tutte le piattaforme di e-learning, la questione essenziale è appunto a questi contenuti chi li ha preparati. Sono persone affidabili, sono persone che sanno utilizzare questi strumenti. In caso affermativo, molto spesso i corsi online riescono a dare un livello di partecipazione molto alto. Noi abbiamo nella mia università un master in e-learning che è dato in e-learning, cioè usando una piattaforma e-learning, e devo dire il livello di partecipazione spesso è molto più alto. Io finisco per conoscere molto spesso meglio gli studenti con cui lavoro online di quelli con cui lavoro in aula. Quindi il livello di partecipazione è molto alto e anche la qualità dell'interazione è molto alta, però mi rendo conto che per avere un livello alto c'è bisogno di un enorme lavoro di preparazione dei contenuti, di validazione, di verifica della qualità. Dove manca questa fase, dove i contenuti sono raccolti così, dove si pensa che basti prendere un documento qualunque e fare una directory in cui si mettono insieme 10-15 testi da studiare e poi un forum in cui discuterli e quello è tutto nell'e-learning, i risultati sono invece molto poveri. Per esempio nell'e-learning è fondamentale la figura del tutor e la competenza, la capacità del tutor di aiutare effettivamente il lavoro didattico. Quindi insomma cerchiamo corsi con tutor bravi, contenuti di qualità e non affidiamoci soltanto, diciamo così, alla carrozzeria della piattaforma informatica che li eroga. Esattamente. Grazie mille a Gino Roncaglia, che è appunto docente di informatica applicata alle discipline umanistiche e di applicazione della multimedialità alla trasmissione delle conoscenze all'Università della Tuscia. Grazie mille per essere rimasto con noi. Arrivederci, grazie. E allora questo è l'ambiente che connatura l'apprendimento online, questa è l'atmosfera che si respira, ma alle 9:27 minuti a noi non resta a questo punto che darvi degli appuntamenti, perché come sempre la vita digitale non finisce con Pensatech, anche se ovviamente Pensatech è il vostro punto di riferimento assoluto, ma ci sono appuntamenti che vanno oltre la nostra trasmissione e soprattutto non solo online, come dicevamo, l'apprendimento non è solo online, allora appuntamenti anche dal vivo, perché sabato sarà la giornata dell'Open Data Day, che a Bologna diventerà un requestathon. Un requestathon, ovvero una richiesta, perché se è vero che le istituzioni, in particolare anche quelle del nostro territorio, stanno rilasciando dati in formato aperto, è pur sempre vero che ci sono anche dati che vorremmo avere a disposizione, perché sono prodotti dalla pubblica amministrazione, che a disposizione non lo sono, quindi bisogna in qualche modo liberarli. Per liberarli in maniera assolutamente normale, semplice, la cosa più facile da fare è chiederli, e quindi da questo punto di vista abbiamo trasformato quello che si chiama normalmente un hackathon, un incontro di hackers, in un requestathon. Quindi tutti quelli che vogliono partecipare all'Open Data Day sabato 23 febbraio dalle 10 alle 13 presso l'Urban Center della Sala Borsa di Bologna, un programma che verrà aperto da i saluti istituzionali, ma poi ci sarà la nostra Elisabetta Tola tra i fondatori di Hackers Bologna, che partirà a spiegare i lavori, e poi ci sarà la partecipazione anche di Diritto di Sapere, un'associazione culturale nata proprio con l'obiettivo di allargare sempre più la possibilità di accedere alle informazioni per tutti i cittadini. Quindi Open Data Day Italia 2013 a Bologna diventa Requestathon, e il Requestathon si fa dalle 10 alle 13 di domani, sabato 23 febbraio, dalle 10 alle 13 appunto, allo Urban Center di Sala Borsa. Mi raccomando, venite numerosi. 9:29 minuti, tra pochissimo le notizie del GR di Popolare Network e poi subito dopo la nostra consueta rassegna stampa nazionale questa mattina, curata da Simone Sabatini. Buona giornata. Ciao.